voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Restart Alp, come insegnare ai giovani a fare impresa sulle Alpi, di Alessandra Tedesco e Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi non è quella di un'impresa a conduzione familiare, ma di un progetto che ha come scopo quello di aiutare nuove aziende a nascere in un luogo che può apparire ostile, almeno da un punto di vista imprenditoriale, la montagna. L'iniziativa si chiama Restart Alp ed è il primo incubatore temporaneo per facilitare la creazione di nuove imprese sulle Alpi. È promossa da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo. 9 ragazzi e 6 ragazze di età comprese tra i 20 e i 34 anni, provenienti principalmente dal Piemonte, ma anche da Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d'Aosta, sono stati scelti per le loro idee imprenditoriali. La selezione ha tenuto conto dei criteri di sostenibilità economica e ambientale, con riguardo al livello di innovazione e al potenziale contributo al rilancio del territorio alpino nel suo complesso. A spiegarci le finalità del progetto è Alessandro Garrone, presidente della Fondazione Edoardo Garrone. Restart Alp vuole trovare, soprattutto nei giovani sotto i 35 anni, delle idee imprenditoriali che possono partire e svilupparsi sul territorio alpino. Il territorio alpino, che è un territorio come del resto anche quello appenninico, sicuramente che ha subito negli ultimi anni dei problemi di spopolamento e quindi di abbandono, ma che come Fondazione Garrone, anche come Fondazione Cariplo, riteniamo invece che possa dare delle grosse opportunità. Quindi noi sostanzialmente teniamo per 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 15 ragazzi che hanno presentato un'idea di impresa all'Appenninico in un posto di un'impresa alpina, in un posto nelle Alpi, che è nel Verbano Chiuso-Ossola, e gli facciamo formazione, poi testimonianze, esperienze dirette, in modo che riescano a capire se la loro idea è veramente applicabile, può veramente diventare impresa appenninica, e dopo 3 mesi il loro business plan può partire, l'impresa può partire, gli daremo anche un aiuto economico ai primi 3, diciamo, progetti più interessanti, ma questo non vuol dire anche gli altri 12 possono sicuramente andare avanti, iniziare l'impresa nella zona di montagna. Fino al 30 settembre nel campus di Premia nel Verbano Chiuso-Ossola, i ragazzi verranno accompagnati nella concretizzazione delle proprie idee imprenditoriali con l'aiuto di un team qualificato di docenti, esperti e professionisti in un percorso formativo che comprende i momenti di didattica, laboratorio di impresa, tirocinio ed esperienza sul campo. L'iniziativa ha un duplice obiettivo, come ci racconta Sergio Urbani, direttore generale della Fondazione Cariplo. Ci consente di raggiungere 2 obiettivi. Il primo è appunto creare delle opportunità di lavoro green, no? Dove oggi il green è un filone che crea posti di lavoro estremamente importante. E poi perché diciamo, oltre a creare opportunità di lavoro, si crea un fenomeno di presenza, di attenzione, di cura del territorio, che è molto importante, perché un territorio che non ha un presidio corre un rischio idrogeologico di indebolimento, che poi tra l'altro è molto difficile successivamente da recuperare, da invertire come tendenza. Noi peraltro non lavoriamo solo in montagna, anche se devo dire che questi ragazzi che ci presentano i progetti presentano delle cose affascinanti, moderne, capaci di integrare delle funzioni che uno non penserebbe, quindi di sviluppare un nuovo modo di fare impresa in montagna. Non è solo un riproporre cose tradizionali e riscoprendole, ma ci sono dei contenuti veramente nuovi. Recuperare antiche coltivazioni alpine e allevare razze in via d'estinzione. Avviare piccole reti di teleriscaldamento a biomassa per comunità dell'arco alpino. Dare nuova vita a luoghi abbandonati come un'ex stazione ferroviaria in disuso o un mulino. Coltivare stelle alpine per estrarne oli essenziali ad uso cosmetico, erboristico e alimentare. Sono solo alcuni dei progetti dei 15 giovani che partecipano a Restart Alp. Tra questi c'è anche Quotati, un'idea imprenditoriale di Maria Lodolo Doria, una studentessa milanese di 25 anni laureata in economia, che ha sviluppato il progetto di cui ci parla partendo da un'esigenza personale. Io sono appassionata di sport di montagna, mi piace molto stare in montagna e mi sono resa conto che questa mia passione la condivido con tanti altri cittadini, altri poveri milanesi come me, e che c'è l'esigenza forte di scappare ogni tanto dalla città. Moltissimi lavoratori sono lavoratori autonomi, liberi professionisti, che possono quindi gestirsi il loro lavoro senza dover essere legati degli orari d'ufficio e a una sede fisica, e in più tantissime aziende, soprattutto multinazionali, stanno finalmente adottando lo smart working come modalità di lavoro. Mi sono resa conto che questa flessibilità dovrebbe permettere ai lavoratori non solo di poter rimanere a casa e invece di doversi recare in ufficio, ma di poter vivere la propria vita lavorativa in un posto che gli dà più serenità e che li rende più contenti, gli permette di creare una miglior conciliazione vita-lavoro. Ed è proprio per questo che Quotati vuole creare uno spazio di coworking in montagna. I progetti messi in cantiere nell'incubatore di Restart Alp si muovono principalmente su due assi. Uno è quello del turismo, l'altro è quello dell'agricoltura, come Paysage à Manger, che prevede la realizzazione di un'azienda di montagna dedicata alla produzione di ortaggi, patate e frutta, ma anche allevamento. Federico Rial, 29enne della provincia di Aosta, ci spiega perché ha puntato sul ritorno all'agricoltura. Allora, la passione per l'agricoltura nasce da una mia considerazione in seguito al corso di laurea che ho fatto. Mi sono chiesto com'è possibile tornare a occuparsi del territorio in maniera preventiva e non solo post evento, come spesso ci viene insegnato. E allora, andando appunto a ricercare i motivi per cui il paesaggio era così ben tenuto, sono arrivato alla conclusione che era così ben tenuto perché era sfruttato, ed era sfruttato in maniera positiva, sfruttato nel senso valorizzato per vivere. Infatti il nostro progetto verte anche su una riqualificazione del paesaggio rurale che in montagna è stato antropizzato ed è quello che lo caratterizza anche per il suo fascino. Quindi l'idea è partita da lì e appunto adesso stiamo provando, infatti, insieme alla coltivazione volta anche al recupero del paesaggio terrazzato che è molto caratteristico delle nostre zone. Nel 2015 il settore agricolo in Italia ha fatto segnare il record europeo di quasi 23 miliardi e mezzo di euro di valore aggiunto, con un aumento di occupati pari al 2,2%, secondo dati Istat. Inoltre, nelle aree montane si producono oggi 235 miliardi di euro di valore aggiunto, oltre il 16% della ricchezza nazionale. Ma per avere un'idea delle potenzialità della montagna come luogo economico, sentiamo ancora Alessandro Garrone, presidente della Fondazione Edoardo Garrone. Ma sono enormi, appunto, se si considera come montagna non solo la zona delle Alpi. Sappiamo che l'Italia è il paese che ha, in termini di superficie, le Alpi, praticamente tutto il nord Italia, ma anche l'Appennino, che è un territorio anche questo immenso. Noi possiamo pensare che praticamente quasi il 30-40% del territorio italiano è territorio montano. Le potenzialità sono tantissime, noi abbiamo fatto anche un lavoro di analisi attraverso una società di consulenza importante specializzata proprio in analisi economiche di quali sono le filiere e le potenzialità economiche di questi territori. Si va ovviamente dal turismo, dalla produzione di beni agricoli, dalla produzione di beni di origine di DOP, a anche altre attività, all'utilizzo della filiera del legname piuttosto che della filiera della flora e della fauna. C'è una ricchezza mal utilizzata secondo noi in questo momento, e se ci si guarda in giro in altri paesi, non solo europei ma anche extraeuropei, invece queste risorse vengono, se ben utilizzate, creano ricchezza, creano impresa, creano occupazione e assolutamente mantengono l'ambiente in modo positivo, evitando anche disastri idrogeologici che noi conosciamo bene. Le idee di Restart Alp non rimarranno soltanto i sogni di giovani dalle belle speranze. I 3 migliori progetti alla fine del campus verranno sostenuti con un contributo complessivo di 60.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Edoardo Garrone, ma anche le altre 12 proposte avranno modo di svilupparsi. Il campus di Premia, però, non è l'unico spazio per coltivare le idee di giovani imprenditori. Anche gli studenti delle scuole vengono stimolati al fare impresa, come ci racconta Sergio Urbani, direttore generale della Fondazione Cariplo. Nei licei abbiamo portato i ragazzi a simulare un'attività d'impresa. Dei ragazzi, per esempio, hanno vinto un premio della Walt Disney perché hanno inventato il pastello a cera con dentro dei semi dello stesso colore poi del fiore che sarebbe nato dalla pianta del pastello. Quindi, finito di utilizzare il pastello, uno lo può piantare, il bambino lo può piantare in un vaso e vedere che dal pastello a cera nasce una piantina. È una formula che funziona, tant'è che ha vinto diversi premi e che adesso andrà addirittura in produzione. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.